6, 19, 7. Oh, yeah. Mamma mia. Luca, Lucariello. Torino, Condo. Pizzo uscito mi vabbè, limoncino. Ah, guarda, ti faccio il cioccolato alla setta, mi io ho abbassato il microfono però, che è una cosa scandalosa, è scandalosa veramente. Ciao, ben sentito. Natalino? Eia, via, come va il mio? Della mutua. Male? No, vabbè, come deve andare? Che Natalino, dalle stelle alle stalle, no? Rispetta una volta. Grazie a te, un MB+4, un amplificato, un tubo, il microfono. No, già si sente meglio dell'originale, però il baracchino sempre nella mutua rimane. Gianni c'è ancora, doppio rum. Niente. Franco, al telefono? Sono rientrato, chiedo scusa. Comunque a parte di tutto, vi devo lasciare che devo in cucina, devo fare roba, la devo mettere nei piatti. Vi lascio, a da voi, ciao. Chi è rimasto? Io sono rimasto. Quel Marco è, non lo so io. Devi mangiare, Marco, lì. Sì, devi pranzare, che chiuda, ma dimmi tu. No, veramente devo far colazione. Non hai manco pranzato, cazzo, arruinati sei. Sì, ma già lo sapete i miei orari, sono sempre quelli, inutile che ogni volta facciamo la tiritera. Qua è West Coast, capito? Costa ovest americana. Infatti ci sono 6 ore di differenza, dal pranzo normale adesso. No, anzi, no, West Coast, 9 ore, e c'è l'altra arrivo alla West Coast davvero, e New York è 6 ore, invece a Los Angeles si impara roba di 9 ore, figurati, però che certe volte prendiamo alle 8 di sera, cioè facciamo un piatto unico, un pranzo unico, una mangiata unica, dai, fatevi andare, ciao. Vai, vai, che tu ti mantenghi. Aspetta che mi tocco le balle anche. Che bastardo. Oltre che abusivo, cazzo, è anche bastardo. Io ti stavo facendo un augurio, non era una bestemmia. E tu ti tocchi le palle, non ho capito. Io sono anticlericale, lo sai, no? Ah, vabbè, non te lo dico più allora. Non dico ateo, ma quasi. Marco! Oi! Ascolta, dimmi una cosa, il Superstar 3009 è quello normale, non quello digitale. Per sapere se il blu, lo smitter, c'è qualche cosa che bisogna digitare, non lo so. Voglio sapere se è blu o se è rossa. Ma quello va chiesto al venditore già. Io ho letto da uno dei venditori, non mi ricordo quale, perché dalla Spagna c'erano prima 3, poi 2, poi non so se 3. Devi chiedergli in inglese o anche in spagnolo di che colore lo vende, perché un venditore diceva: alle volte ne abbiamo qualcuno, ma pochissimi, col display blu disponibile. Però la maggior parte sono display rosso, che mettendoli a fianco ti dico è più bello il blu, molto di più, più luminoso, più tutto. Sono rientrato e stavo regolando la radio a Riccardino. Eia Claudio, dai, quindi già dovresti contattare il venditore quando ti decidi, magari guarda, leggi bene gli annunci anche, vai Claudio, dai, sto andando in cucina, ciao, non riprendo. Eia, va bene, vai. Vediamo un po' se Riccardo riprende, se no riprendi tu Gianni, dai, per rispondere a Marco. Ecco, adesso vediamo. Intanto lo stava guardando Luca. Faccio vedere se è blu, display o gli spara la domanda, non lo so, se capisci l'italiano, il dittore, è spagnolo. Vediamo un pochettino, Riccardino si è entrato. Aspettiamo già la Spagna, non so, vediamo un po', vediamo un altro messaggio, vediamo se mi risponde. Che forte ci vuole. 40, cosa? In inglese glielo dici, se è blu o se è rosso. sei spagnolo, non è che se glielo dica. Oh, ma ci parlo io, oh Lu, ci parlo io. Che c'è tal da meglio su dal gay? Si chiama... A poco male. A poco male, cla. E allora, ero già io, per parlare lo spagnolo non ho problemi. Un poco di catalano, misciato a portodorese, sassarese, sai come ti capisci? Ma con questo sì, cubo in mezzo. Allora, che c'è tal da, e vedi che... A me non so perché c'è la margherita e a posto. Ah, beh, questo è la però che sono tuccato. Mia, la te ne ho riservato, a me. Noi, gianto! Obo, che si vuole in gravità uno con l'altro, tu. Ci siamo sovraccavallati, come dice Paoletto. Sovraccavallati, fuori mai. Sovraccavalletta, Gemma, sovraccavallati, sovraccavalletta. Ti ricordi tu? Siamo ammucchiati. E beh, a tu. Ah, non ci capisci altro. Ah, vabbè. Dove sei tu? Vabbè, segnale buono, però si è sganciato. Vabbè, faglielo vedere a Luca a vedere se si aumenta. 9,5, davanti al più 6. Fa voglia. Qua fai da 8 a 9,5. Ascolta, non gliene hai dato l'ingresso. Sto uscendo. Si è mancato il radio un attimo, proprio tipo, capito? Allora, prova, sto uscendo. Eia. Allora, stavo dicendo ad Antonio, quanto ingresso gli hai dato con la Geggio? Ah, 4 watt, ho capito. Ah, ma normale? No, ho capito. Riuso, va bene, va bene. Che microfono stai usando? Ciao, tu. 4 di bianco per me. Ma le cabezze la cassula? Non i capri 2, cappa. E questo come sta uscendo? Io qua ho fatto un lavoretto, questo microfono. Io, il Proxel, che però più, non è più Proxel. Ma è un altro microfono, un incrocio. Un proso. Un incrocio di microfoni. Era un Proxel, è diventato un proso. Allora, già me l'ha fatto così. Gava. Ho cambiato capsula, gli ho cambiato altra roba. Va. Eia, devo farmi la voce più sexy. Esatto. Ma la capsula ce l'avevo buona, la scatola, ce l'avevo nella scatola. E l'ho presa da lì. Sì, c'avevo microfoni vecchi smontati. Mi ho tolto da un microfono vecchio smontato, va. Ho capito perché stavo mancando il radio. Posso smettere l'altro? Se me lo sta rogando un po' il vatto, cosa adesso? Certo che ce l'ho, ma non ad attaccarlo. Allora, lascio la portante muta, la portante non parlo, guarda se il segnale varia, dai. Quando ti arrivo in alta? Ok, sui più del 30. Sta mancando di radio, non penso che sia il PTT. La batteria è buona. Vabbè, lascio te da corroso. Sì, magari se ti serve un PTT già ce l'ho. Un microfono smontato ce l'ho. Sì. Che microfono è? Il MV più 4 già. No. Un Proxel ci ho smontato. C'ho un Proxel. E funziona tutto quanto, funziona tutto. Solo che poi c'erano staccati i fili, eccetera, eccetera. C'ha i fili, fili, come lo apri che si staccano. E vabbè, me l'ho lasciato così, non avevo voglia di risaldarli. Serve il capo. Il capo mi serve perché di quelli morbidi e non te lo do quello. Ah, sempre recuperando, aspetta. Quanto ho cercato per Mari e per Monti quella bruvola che va sotto l'antenna, non sono riuscito a beccarla, secondo me come ce l'avevo in tasca, me l'ho tolto la tasca giù e mi è caduto giù. E io guarda, ce l'avevo, perché me lo ricordo, era in ottone, era. Ce l'avevo, quando l'ho tolta la scatola, c'era. Io va sotto, sì, è quello che fa la massa proprio. Ebbene, non c'è un modo di farli fare massa lo stesso. Ho passato l'acqua. Aspetta, se lo faccio 60 centimetri va bene lo stesso. Non mi giuro. Dai, uno da 1,50 io. Io ce l'ho da 90 e da 120, so. Breco, per un controllo, grazie. Breco. Avanti. Cattolevane e regato, Massimiliano. Ehi, positivo, dai, buonasera. Mi dà un controllo, Gloria. Prova a vedere. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 più 25, radio 5. Andrà bene a me, da tutto oggi, dai. Vabbè, non si vedi, era. Dai, c'è un po' di propagazione 45, là. Non segnali. Capitano, ci vuole vitamina, allora, vitamina. Ma scusa, non ho detto che c'hai il 747 tu, Luca? Sì. Ho detto, non c'hai il 747 tu? Non ce l'ho, Claro, no, questo è Giuseppe, so che se l'hai dimenticato. Per vedere come si comporta, e se si comporta bene lo compro, capito? Ho già trovato, a 67 l'ho spedito. Fatti vedere io, tanto... Metto l'armadio io, genera rivendi, oramai l'ho già dato, bastava chiedere, se lo sai che non c'è né problema, te l'avrei dato a usarlo, no? Così ti rendevi conto, adesso l'ho già dato, l'ho venduto. Non ti preoccupare, ci sono problemi. È che lo voglio comprare, per essere sicuro, se lo compri io me lo manda, mi fa problemi, io lo compro a fare. No, no, no. Non aveva problemi quelli in aletto, guarda, ma tutti i dinti. Io ne ho avuto tante di quelli inialetti e fanno il suo lavoro, sono abbastanza efficaci. Sì, però lo alimento con il... cioè mi fa problema sempre. Lo alimento con quell'alimentatore dei cinesi. Eia, a proposito di alimentatore dei cinesi, mi hanno dato un altro a 40 ampere. Sempre quella roba, nuovo dentro la scatola, 40 ampere. Bellissimo. Però l'ho messo a parte perché a me non mi serve adesso, vai. Capasa. Ma non è dei cinesi che sto parlando. Cos'è, degli inglesi? È un gioco, sono i coreani, mi ha abbassato la leva, minchia che... Sì, qua anche qua sta piovendo. Sono qua forte, forte, minchia. Vabbè, Tonino ancora ci sei. Gianni, riprendi. Gianni sei imporrendo, vuol dire me e noi. Gianni, cazzo, tutti i fuggiti al 45-7, buh. No. Ci sta facendo un pensierino. Ma già se lo prende, io ce l'avevo lavato, no? Non mi interessano i baracchini a me, io basta quelli che ho, c'ho questi vintage. Prima le 9.000 erano bestie accolte, nuovo. Tutto cromato davanti, tutto blu lo stesso, molto bello, l'ho dato uno di Alghero. E non lo so, me l'aveva fatto avere Massimiliano, però era bellissimo. Tutto blu, molto bello. Blu, anche il frequenzimetro è blu, No, porca lampadina, comprato il frequenzimetro blu, fatto fare così. Una bestia era, regolazione dei watt e tutto ce l'aveva. Solo che io non lo uso, anche 45, era sempre dentro l'armadio e l'ho venduto, venduto. Regalato, raggio. Sì, quello ce l'avevo io, sì. Ah, cos'era allora? 3.600, boh. No, il mio c'era il frequenzimetro, cazzo me lo metto come pioggi, bello illuminato blu. Ah, c'è il Galaxy Pluto, Clatto, lo c'è il 3.900? Lo c'avevo? Pluto! No, cazzo me l'ha fatto per Massimiliano, 3.900 era. Pluto? Sì. Boh, Massimiliano bisogna dirlo. No, una bestia. Nuovo di zecca. Nuovo, ma veramente nuovo. E non pompava. E io ci avevo attaccato 747 lui. Quando andavo nel 45 le davo 2 watt e mezzo, e me ne dava modulati un'ottantina. E arrivavo benissimo a tutte le parti. Beh, certo, lo posso immaginare. Perché 747 se non c'è una radio che spinge, dati 60 watt, mi cosa. Però se c'è una radio che spinge li dà 80-90, capito? E prova con lo 440. Cazzo c'è, si lo fumo, mette il sventino. Non si è sentito stasera Muscolo, dove mai? Muscolo! Ehi, non pensare, mi stavo lavorando, non deve essere ancora arrivato a casa. No, adesso è iniziato a piovere. Eva, cazzo di Eva, quando devo portare il cane si mette a piovere, ammazza, andiamo in varia. Qua sono là. Ma sì, lì, che radio era quella che mi avevi fatto avere tu che ho venduto a Valerio? Superstar 3.0. Ma c'aveva il frequenzimetro blu quella? No, era senza il frequenzimetro. Ah, ecco, quella che mi hai prestato tu aveva il frequenzimetro blu. Ehi. Ma no, quella lì aveva il coso, Claudio, il visualizzatore dei canali blu e lo smitterino blu. Sì, che non erano lampadine, è proprio il visualizzatore blu avevi fatto mettere. Sì, perché lui mi sembra ce l'abbia rosso in origine. E si avvisi? Ehi, quella era bella, veramente una bella radio. Ma più o meno sta lì da te? Per via di Luvieni, Sì, via, vabbè, lo dici un gambo, si già sta girando. La bigli un gomma devo chiamare. E vabbè, cosa ci devi fare? No, ho messo un po' di acqua lo stesso. Torre abbordante, vero? Cosa, Cla? Torre abbordante, vero? Sotto di te, ma questa è più forte. No, ti ho mandato un messaggio poco fa, non mi hai risposto alla mia domanda, Massimi. Ah, sì, aspetta che lo guardi. Ah, ecco, io te l'ho mandato una risposta. Ehi, Massimo, a volte lo appoggio e con il volume della radio non sento il messaggio che arriva, sai che me lo controllo. Riprendi, Lucarietti. Basta mettertelo davanti al microfono e il telefono. Allora, qua sono portante muta, 12 watt e 20 modulati anche tu. Sì, portante muta 12 watt, una volta modulare o è quasi 20, dai. Se fisco sale a 20 però. Prova radio, va bene, dai. Se mettono bene comunque. Il Diamond 6200. Tu c'hai il 600. Ah, ho capito, 6000, c'è quello della Telecom anche. Non so se è la stessa ditta lì fa. Con chi stai parlando? Cosa? Con chi stai parlando? Quanto in riserva? Brigade Bregade. Avanti, Brigade Bregade. Avanti. Buongiorno a tutti, buonasera forse. Antenne, a Riccardoni a radio. Ah no, c'è Riccardi, vabbè adesso c'è il microfono alla tavola, così è. Mi hanno prestato una radio. Una radio ti hanno prestato? Positivo. E che radio è sempre base? Sì, una base. Ho capito già. Lo senti anche tu adesso? Sì, non so parlare troppo. Ah, tu lo senti adesso? Visto, vabbè si è messo l'antenna. Sta andando oltre i 20 watt, tanto voglio comprare questa cosa. È un lavoro in fuzia. Ma se mi visto quel preamplificatore d'antenna dell'MFG? Bella grazie Riccardino, 920 è qua. E cosa hai combinato? Cosa hai combinato? Trattendi la radio uguale alla mia, io lo dico. Ah, ecco Barosa. Questa è 30 sto usando. Avanti Riccardo. Ok, come ho detto, ciao a tutti, adesso sto usando il microfono da tavolo e penso che sto uscendo bene, sono anche a un metro di distanza. Sì, ma non c'è bisogno di modulare un metro, abbiamo già fatto le prove con Fabrizio. Tienilo anche a 30 cm e puoi parlare, senza gridare. Ok, sei 9 più 20, cazzo. Vabbè, oia. Giava. Lascia ti mando vocale, Massimi. Avanti Riccardo, parla tranquillo, non toccare niente lì, Lascia stare le regolazioni che ti ha messo Fabrizio, ok? Sì, ok, lascio stare, non tocco niente perché non voglio che inneschi neanche. Ascolta, non toccare voglio lì, Riccardo. Qual è l'altro passaggio? Guarda, vabbè, 1, 2, 3, prova. 9,40. Figurati, 9,40. Cazzo, giusto, uno smito adesso. Non ci sono mai arrivati a 9,40. Cazzo, manco qui vicino arrivo a 9,40, arrivo a 9,40. E adesso il bello è che ho anche i canali alfa. Con questa, con i vintage non ce li ho i canali alfa. Va bene, buona radio, va benissimo. Aspetta, tanto guarda quando ho smontato stamattina, aspetta, ci voglio una cosa. Claudio. Sì, dimmi, Recca, quanto ti sto arrivando io invece lì su quello smitter bello? Più o meno lo stesso, 4,40, 9,40, così. Comunque ti volevo chiedere, in questo dov'è il volume? Perché non voglio toccare niente di sbagliato. Guarda Recca, il volume, aspetta che accende la luce, che accendo la luce Recca. Allora, il volume nella tua destra in fondo, no? L'ultimo tasto in basso c'è scritto AFRF, quello nero, non quello grigio, quello nero è il volume, il pulsantino nero, il potenziometro nero è il volume. Ok, grazie, ho fatto. Ok, stai uscendo benissimo, alla grande. No, non toccare perché c'è da rivedere il microfono lì, già poi già te lo vede Fabrizio, perché se sollevi il Mickey Gain come l'abbiamo messo noi, allora fischia, capito? Sì, non tocco niente perché voglio rimanere così. Andando benissimo, sì, 9 più 25 addirittura, adesso ho acceso la luce. 9,25, il segnale più alto di tutti c'è. Dopo Marco, sì, quanto è Luca? Riccardo, buonasera, qua mi Claudio. Cosa? quindi arrivo allo stesso segnale tuo. Se lo intendi, certo, c'è potenza adesso. È chiaro che arriva bene, prima aveva pochi watt, capito? Già va bene, sono contento. Va bene, sto usando il 430, ma io sto usando il 440 adesso, poi accendo il 430 a vedere. Ok, non antifare, riprendi. Capo, dai, no, riprendi, sono entrato solo a dirti quello, sto facendo cosa? Sto facendo. Ciao a tutti, sono Massimiliano anche, ciao Massimiliano. Ciao Franco. Ciao Gianni. Riccardino, buonasera, dai. Come ti arrivo con quella radio, guarda. Hola. 9.20 staccato. E io sono con l'omologato adesso, sto uscendo con l'omologato. C'ha pochi watt, 3 watt e mezzo. Io arrivo più forte già di te, Gianni. Sì, lo so, perché io ce l'ho omologato, si attacco l'altro, vedrai come arrivo. Cosa c'hai, melegato? 9.40 su vita lui e finiva. Cosa c'hai, melegato? Sì, quello, il Cobra, cioè, sto usando il Cobra col microfono che ho modificato io, dai. E il melegato stai dicendo, già va bene. La gente che mentre Roberto Quadratto mi... Ah, Riccardi, aspetta, adesso gli arrivi a fondo scala, il segnale più forte di tutti, una cannonata qui e là, un gannone che ricudiano a capo. Sì, sarà contento Roberto, va. Tutti siamo contenti che Riccardo esca bene, cosa c'entra, però... Già va bene così, dai. Adesso piano piano si fa una cultura e poi vedrà lui. Avanti Massimiliano. Sì, andiamo bene, vera, andiamo bene. Chi è rimasto qua oltre Riccardo, Luca, Gianni, tu Claudio, poi chi c'è ancora? Sei rimasto? Non penso. Papino, la tu via. Chi già? Natalino, via andato. Non lo so, forse si è allontanato. Natalino. Sono qua. Ah, c'è sempre Natalino, non ti preoccupare. Massimiliano, hai visto quello strumento che ho preso? Io, già va bene. Ho rilanciato qualcuno, chi c'era in questo canale. Cazzo, eri l'immundo, Natalino. Sono qua, ma devi farmi dare pure, non esci qua, chi sono qua? Oh Claudio. Ah, tu ricordi? Volevo provare, se mi avvicino la bocca al microfono, tipo come facevo nel palmare, a vedere se arrivo molto più forte. Aspetta, la avvicino, così come mi sentite? No, è brutta, è troppo compressa, Ricca. Quello è un microfono professionale, devi parlare a 30 centimetri dalla bocca, normale e rilassato, non ti preoccupare. No, lo so, era solo per sapere se era più forte, no, non lo... Certo, adesso, come ho detto, sto parlando a 30 centimetri, come mi hai detto tu, Claudio. Usalo così, come ti ha fatto vedere Fabrizio, hai visto Fabrizio stava facendo le prove con me, così devi parlare tu. Purtroppo quel microfono non si può sollevare perché fischia, poi te lo controllerà Fabrizio, non so perché. Quindi abbiamo disattivato la preamplificazione dell'MC60, capito? Non la puoi mettere la preamplificazione. Quindi in pratica lo stai usando senza preamplificazione col processore inserito. E va bene così, lasciala così adesso, poi Fabrizio tornerà e lo metterà a posto. Vabbè, l'acqua asciuga, sta sempre piovendo. E adesso io fra un po' mi vado e mi cucino qualcosina. Facciamo il pollo alla cacciatora stanotte. No, io ho salsiccione con i peperoni e olive, molto buono, ne avevo anche voglia, e poi un po' di salatina. Allora, ho mangiato un bel piatto di riso, e in bianco, senza nulla. Cazzo, ma io non si ne manda una sogana a farvi la manda laterale. E da poco fa, Massimiliano, da poco fa, vero, uno spagnolo tappava tutti. Sì, ma non era buona, cazzo, e non si ne avvisa per niente. Vai, vi comprendi che per gente. Sono assai loro, è una futta assai. Va bene, vera. Aiuto Lugarie, riprendi, vai. Eccomi qua, ci siete, sì. Ehi, ti abbiamo rilanciato, ma sei sempre cazzo lo soldato del mount. No, sto mandando un paio di messaggi su WhatsApp, da. Non sono lo soldato del mount, ho già saldato lo spezzone. Però ho notato che... Allora, aspetta. Scusate un attimo, questo è così, no? Allora, portante muta, 15 watt, questa radio da un bel watt di Massimiliano, perché va oltre i 20 watt? Bianco per me. Eia, vabbè, messo da 15 watt quello arrivato. No, ma dico, 15 watt è portante muta, e una volta la modula va a sbattere l'angolo dall'altra parte. Cambia scala, no? Vedo un po', se continua... cambia scala, guarda se va a più di 20. Allora, scala 50. Ma rimprovi non si fa delle bruscelle, a chi si fa delle favidelli normale, caso che tu quando entri in radio non fischino. Vabbè, ho capito, dai, comunque prova radio, 20, 22, 23 watt, dai, se vuoi la fischia adesso avrò 25, capito? Quindi quella lì con il linealetto non la puoi usare? No, assolutamente no. Se non che... Allora sì, non ce li hai regolabili in quella? 20-25, no Massimiliano, no, devo aprirla e abbassarla un po'. Positivo, eh? Avanti, doppio rum. Sì, va bene a 2 watt anche, va bene anche a 2 watt. Poi sale a 10-12, come fa la mia, 2 watt sale a 10. E non va bene, a voglia. Va benissimo. Ma che cosa stai usando lui? Sono tornato. Va bene, ok. Stai usando il Typhoon. Riprendi le carte. Ok, riprendo. Comunque sono contento che adesso sto uscendo molto meglio. Voglio vedere come avete detto voi a Roberto Quadrato, perché so che già gli arrivano 20 spaccato e con questa voglio vedere. Sì, con quella di arrivare quanto gli arrivo io, se vuoi ti dica. E quella è una radio professionale, Ricca, te l'ha spiegato, no? Te l'ha data proprio per iniziare a farti una cultura, come dice Fabrizio. Però sei già a grandi livelli. Ok, grazie Claudio. Comunque, per i consigli, quando mi serve qualche consiglio, visto che mi ha detto Fabrizio che ce l'hai anche tu, questa radio. Sì, io ce le ho tutte e tre di quella serie lì. C'ho il 430, il 440 e il 140, che sono simili, capito? Il 430 è una bellissima radio, va bene, usala tranquillo, già funziona bene, non ti preoccupare, ok? Ok, grazie Claudio, fate girare. Ciò. C'avevo io. Cosa, Massimiliano? Ma è 430 che avevo io? Sì, quello che avevi tu. K. Sì, ho detto Fabrizio, ho fatto una controllatina e l'ho fatta lui, non so, poi vedranno loro, comunque già sta andando bene. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera a tutti, c'è una propagazione su 45, 925, 930, capo di tutto. E non è fottuta mai che 45, Antonio. Io sono qua, non ho radio per potermi permettere di entrare lì a fa brutto. Lì se non hai quelle radio è inutile che ci vai, perché intanto manco ti fanno entrare. Ho preso Cubasso, sono venuta. Fammi guardare adesso, c'ero io, qui da 2 secondi fa. C'ero adesso, non c'è niente. Su 45, allora hai sbagliato il canale perché è pieno. Luca lì, 9:20 sono. Ah sì, adesso l'ho sentito, dai. Ma non è continua come cosa, propaganda, dai, no. Ma vabbè, non va bene. Sì, non va bene perché non c'è sostanza sotto. Cerca un po' di sostanza sotto, vedrà che già entri. No, là c'è una sostanza sotto, cosa ne sai tu? Colpero senso. Colpero, vuoi baffi? Ciao Antonio, buonasera. Ciao Massimiliano, buonasera, ben sentito anche a te. C'è anche la Talino, chi c'è rimasto qua? A parte di Talino che l'ho sentito. Massimiliano, tu dici, non c'è sostanza, Macci, c'è per Beckman. A me, compreso. Sì, c'è Natalino, sempre mondo, non rilanci, non riprende, già son qua. Vai Natalino, qua sì. Sì, son qua. Mi sta ascoltando. Non posso parlare sopra di lui, no? Si nota che di un attimo di bianco. Io ascolto, poi. Sei entrato Pomponio, ha detto che è tutto gonfio, e ti gonfia. Tutto gonfio c'era, ma lo sappiamo, ormai è vecchio. Ho detto tutto gonfio, ma sta facendo una cosa. Sei tu che c'hai tutto gonfio, bazzo. Te lo faccio vedere, sei muscio. Appiccalo allo gozo mio, al canarino. Ce lo metti dentro la gabbietta e c'è a posto. Il barratto. Bene ragazzi, dai, io vi saluto. Va. Ci sentiamo più tardi se coincide, se no buona serata a tutti. Vi abbandono, ciao. ciao Massimiliano, che va, me ne andavo a mangiare pure io. Ciao Claudio, a più tardi. Sono Massimiliano, non Claudio. Ah, scusa Massimiliano, vi confondo, non so perché, succede solo a me. E come mai mi confondi, la voce uguale abbiamo. Così, un po'. Claudio, allora, sei furtito, se c'è la voce uguale alla mia. E cosa, che voce? Io ho la voce brutta come Massimiliano? No, Riccardi. Adesso chiamiamo a cosa, Massimiliano, torre di controllo. Non penso più. Cambia casa, cambia casa. Vieni qua su a modulare, Massimiliano. Vedi tutto, ti prendi l'appartamento qua su vicino alla discoteca di cosa, di quello che come si chiama, insomma, non mi viene in mente il nome, che è morto. Lì dove c'è la discoteca. Se vai quella villetta, sai come ci fotte. Tu Antonello, sai che posso salire ancora più in alto, sì. Lo sai dove abita mio cognato? Non so dove abita tuo cognato. Ma l'unico punto bello che c'è è che dove ci fonte è quando dal centro ecologico vai verso il monte, c'è una strada che adesso non sono stata mai serrata e c'è un questo fermo. E adesso devo mangiare. C'è questa villetta, ma lì c'è un punto allucinante, c'è vicino a dove c'è quella fare l'acquedotto. Ascolta, mio cognato abita in quella villa, ma non tu stai salendo oggi, abita in quella villa di fronte, quella villa grande che c'è nella strada, di fronte proprio all'ingresso del centro ecologico, lì abita mio cognato. Ok, dall'uscita di via Pietronini, è ancora più alto di qua, quindi non ce n'è problema. Posso anche mettere un'antenna lì e portare un baracchino, se voglio aumentare ancora, ma già mi basta il discorso. Cattro vigolo andammini e no, che devo ancora trappi un altro. Cosa pensi, se basta la pianeta qua? Dal 1987 ci sono 3 anni, mi sono spostato via Pascolini e poi sono tornato qua, quindi manco ricordo quei 3 anni io. Ehi vabbè, ma via Pascoli è un corso, io no, tu quando eri via Pascoli ero insieme al corso Vittorio Emanuele, mi sono donato, quindi figurati. Poi hai fatto salendo tu, salendo ci dopo, dopodiché io abitare qua, di nuovo. E ti posso dire che quando ero via Pascoli ricevevo tutti e bene, tutti, anche Alghero. È una bella zona lì dove ero io, anche perché è alta, il palazzo era alto, era molto aperto. Però qua è un'altra guba, ma io questa casa oramai la sapete tutti, la sto vendendo, se riesco a vendere me ne vado, se no rimango dove sono, c'è la biglietta. Guarda, se è che il condominio di Verizzedu si paga un bel, perché si paga un bel, secondo me sei andato proprio lì a abitare in quella mansarda, è stato benissimo, avrei avuto l'antenna sopra, quel remme intero mi sarei rimesso dopo il 80, perché lì non passa mai con cane in quella biglia, lo sai, passavano, solo i cibi passavano a ingrassare a Carlo. Quindi figurati adesso, un motore era prima, un motore adesso. E vabbè, altrimenti ti stai parlando anche a me, già me lo ricordo perfettamente. Avanti, chi c'è rimasto qua? A parte Riccardo, chi c'è? Tu, Massimiliano, poi? Io ci sono. Dove sono andati? Al 45. Siamo che a 12 anni da ieri, se vende queste occhi, si porta a destra, chi a sinistra? Cazzo, tutti lo guardate a zicco, c'è occhio. Ma che avvicini. Avanti, Riccardo. Sì, ok, ma quelli che sento in sottofondo sono spagnoli? Sì, sì, c'è un po' di propagazione, spagnoli, un po' qualche inglese. Ma sta piovendo a dirotto però. Ricevi bene gli spagnoli? Sì, sono forti proprio, sono forti, li sento bene. Hai visto la differenza della ricezione che c'è da quella radio che stai usando adesso al baracchino, te ne sei accorto? Me ne sono accorto, già. E cosa hai deciso? La tieni quella? Me l'ha presa Fabrizio, poi devo vedere se ne trovo un'altra, me l'ha prestata solo. Ah, te l'ha prestata? Vabbè, sì, perché quella penso che non la dia. Ma già te la trovo una Fabrizio uguale a quella, non ti preoccupare. Stai dicendo a me da dove modulo? Io sono Claudio Salviero da Sassari. Vabbè, nata lì, riprendi, vai. L'ho sentito pure io a quello. C'è un po' di propagazione perché sta piovendo e quindi è entrata un po' di propagazione. Va bene, va bene. Va bene, va bene. E dove l'hai messa, Recca? Vicino agli altri radio? Sì, l'ho messa praticamente tra il Colt e lo Stalker. E con cosa la stai alimentando? C'è un alimentatore grande? Oh, quell'alimentatore da 28 ampere. Ehi, ha voglia, ha voglia. Lo alimenti tranquillamente quello, non c'è problema. Uia, uia, vabbè. Io figurati che quella radio lì, Riccardo, l'ho comprata nel 1987, nuova. Poi l'avevo data, poi me la sono ripresa, l'ho data, l'ho ripresa, adesso ce li ho tutte e tre di nuovo, tutte e tre uguali, una diversa dall'altra, però simile a quella, capite? Già ho capito, sì, sono belle, e Babbo ce le aveva, le ha vendute tutte e due, ne ha avuto due, lui le conosceva già, vabbè, io che non ne avevo mai vista, dico mai usata una dal vivo, mi piace molto. Era bella radio quella, una bella radio, io ce l'ho uguale a quella, il 430, poi c'ho la sorella, il TS 440, e poi c'ho il figlio, il 140. L'ho visto, il 440 non cambia di molto, visto che più o meno si assomigliano tutti. Sì, il 430 col 440 si assomigliano molto, il 140 è diverso, però il 430 e il 440 si assomigliano. Il 440 c'ha l'accordatore automatico, c'ha 100 memorie, c'ha qualche cosina in più, però è un ottimo ricevitore il 430, ricetrasmettitore molto molto bello, funziona bene. Lo so, ma comunque adesso non sto innescando, prima con Fabrizio stavo innescando. No, no, no, gliel'ho regolata io a Fabrizio, va bene così, non stai innescando, va benissimo, gliel'ho regolata io, lasciala così. Come ho detto già non tocco niente, che non voglio che inneschi e altro, mi va bene così. Perché se poi innesca è un casino, rimettola a posto, capito? Perché Fabrizio la conosce bene, quindi gli ho dato due dritte e l'ha messa così. Se tu vai a toccare poi è un casino, capito? Facci un po' di praticità, di pratica, e poi vedrai che già riesci a farla funzionare bene, vai. Sì, ma adesso Fabrizio, uno o due giorni di pratica e poi so già come funziona. Ma infatti, se sei intelligente non c'è problema, piano piano vedrai che già riesci a fare tutte le cose, vai. A parte Natalino che ci è rimasto in questo canale 10, tutti scompariti nel canale 45 sono. Sono tutti scomparsi nel 45 senza dire niente, non lo so. Allora, tutti spariti nel canale 45 senza dire niente, e allora? Tutti così fanno, Ricca, colpa di Massimiliano. Basta di vai, lo capo di fuma, sono giovane, lo capo di fuma. Ehi, Luca, rientrata, sei Gianni? Sono qua. Allora, riprendi, dai, ho detto che era rimasto, riprendi. Sì, faccio molti splatter, bisogna che cambi il radio, dai. Cambio baracchino perché qua mi stanno splatterando. Un attimino di tempo, datemi che lo cambio. Già lo sai che non lo puoi usare il 48, già lo so che stai usando il 48. Bogazzino, metti la tua radio, io. Avanti, Ricca. Ok, ma perché tutto c'è sul 45? Perché volevo sentire anche Roberto, dovrebbe essere già uscito, perché voglio proprio sentire cosa mi dice, come ho detto. Non l'ho sentito sul 45, se no passiamo sul 45 o sul 10. No, ma sul 45 ci devi andare con una radio di quelle modificate, perché parlano con l'eco lì, capito? Devi avere una radio modificata. Se andiamo con queste radio, vedi che anch'io sono rimasto qua. Manco ti fanno entrare, Ricca, capito? Loro vanno con le radio modificate. Noi radio modificata non li abbiamo, allora rimaniamo qua. Capo, aspettiamo che entri qualcuno anche che non era entrato prima sul 10. Propagazione, già, chi è? Propagazione. Devo carmi le voci. Stacca che sei saturo, già. Ehi. Sei staccato, hai? Ehi, non ho attaccato per parlare, va. E vabbè, con la LAN 48 non saturi, con quello saturo. Va va bene, passa va. Ora dobbiamo buttare i cani, non sta scendendo l'aria. Poi alle 8 io ho un appuntamento, ma dimmi dove, devono portare un paio di microfoni. Non so, ho sentito l'intervento portato, ho sentito tutto, che aveva praticamente l'MP più 5 e stava scambiando per il turner, è lo stesso. Ehi, ehi, era un po' c'è anche lo sciuro, c'è Daniele. Così lo collego al DAC uno o l'altro, adesso vediamo, qui ce li ho tutti, tutti con i microfoni in tavola, capito? No, questo anche se è attaccato Claudio, se io abbasso la potenza attaccato non satura. Satura solo se al massimo di potenza. Ehi, ma infatti ho detto abbassa, attacca, non lo so, poi vedi tu. No, non c'è bisogno di attaccare niente, già ci sentiamo lo stesso. Ti ho detto che ce l'avevo attaccato perché io su 45 sto facendo di X. Davvero? Capito, ti ho. Avanti Luca, finita vedi il 43 va brutto. Ehi, gli ha dato che sono dei chilati, sono un bus da terra, che lo date chi dà. Sì, hai capito di no, bus da terra, basta trattarlo. Ehi, ogni tanto mi bruciano gli occhi, ma non ammala. Vabbè. Ah, similiari, entrato sì. Andate a prepararsi la cena. Niente va, maleducato, manco abbassando a salutare, cazzo. Vabbè, dai, Natalia, riprendi tu. C'è Riccardino, c'è Gianni Open Room, Luca, che io intanto mi vesto, che troppo porto il cane, vai. Ma ha smesso di piovere? No, ho già smesso, ho entrato a portarlo sotto il porticato anche a me stasera, cazzo, rottura i balli. Ah, no, io l'ho portato alle 5 e adesso lo riscendo, se smette di piovere, se no non scendo nemmeno, tanto ha fatto tutto. Mamma mia, deve fare la popò di nuovo. Io non lo porto presto, capito? Lo porto a quest'ora. Ci sentiamo dopo, siamo qua. KK. No, io lo porto tre volte, lo porto di mattina alle 8, poi all'una, a volte lo porto, invece che all'una lo porto verso le 4 e mezza e alle 5 salgo. E poi lo porto di nuovo. K. Avanti Riccardino, adesso sei contento che ti hanno attrezzato. Sì, comunque senza Claudio che se n'è andato e ci vediamo più tardi. Sì, sono contento adesso che ho anche il microfono da tavolo. Già bello, sì, colori con l'apparecchi lì sono belli. Sono radioamatoriali ma sono apparecchi belli. Lo so. Comunque ti sei rimasto, vuole entrare qualcuno, nessuno, oggi sono tutti su 45. No, se ne sono andati a 45, ce l'avevo io Luca e Massimiliano, anche se domani cagando di manco a me, vabbè dai. Già, stavo cercando di chiamare ma non ci rispondevano, capito? Alla fine quando è così non ne vale la candela. Cava gara, va bene, anda bene. Vabbè, se non dicevo non ti cagano nemmeno. Allora Riccardi, com'è? Com'è cosa? Dico, com'è? Come ti trovi con quella? Bene? Benissimo, non bene, benissimo. Ascolta, quando ti arrivo di segnale, guarda un po'. 9 con picchi 9,5. Così basta arrivo, certo. E io guarda Riccardi, guarda io come ti arrivo, 1,3 prova. 9,30, con picchi negativi scendi a 9,25. Picchi negativi. Ora, qua sono pulito. E io quando ti arrivo, Riccardi? Ora. No, adesso sei fermo sul 9.20, 9.30, 9.30 più o meno così, 9.25, 9.30, però sei più sul 9.25. Allora mia risposta, buon pomeriggio, mi dispiace, al momento non possiamo effettuare spedizioni internazionali fino a giugno, a causa della pandemia. Ciao Eric. Ogni volta è dura, io stavo per il caso di risolvere che li do. Pindaccio. Abusivo. Scusate la deduzione. Chi è che non effettua le spedizioni? Quale dei due venditori? Me la legge uguale per tutti, mi c'è una che l'altro. No, ma cioè voglio dire, è per sua scelta che non le fa, perché c'è chi le fa tuttora le spedizioni nazionali. Sarà lui che non ne vuol fare. Quale dei due venditori era? Non lo so, Luca, guardate. sì, vabbè, lui dopo me lo dici, dai, per curiosità. Spedizioni, Marco. Aspetta. Io che c'è, andiamo dove andiamo. Allora. Allora, buon pomeriggio, mi dispiace, al momento non possiamo effettuare spedizioni internazionali fino a giugno a causa della pandemia. Ciao Eric. Sì, chiusi e non hanno gli operai, è logico che non fanno spedizioni. A me quel sacco di vetro mi è arrivato dopo un mese. Buono, buono. Ehi Lugia, ho capito, ma quale venditore? Spagna. Quale dei vari venditori? Guarda, 159 e 35 di spesa. Guarda che può essere una sua scelta mia di non fare le spedizioni. Se tu vai dall'altro paghi meno spedizione e un po' di più la parecchia, ma credo che tu sia pari e patta e magari lui le fa le spedizioni, capito? Dipende se c'ha personale, se ne ha voglia, se non ne ha voglia. No, vabbè, di più, quello di più poco è costa, l'altro costano 200, 250, 220, 2, oltre 250, oltre 250, 300. Io ricordo 189 o 179 più 8,50 di spedizione, boh. Vabbè, devo vedere. Insomma, è destino che non ne prendiate 3.900, tanto è una radio tipo il 48, mi usa credito. Sarà le bande laterali in più. State parlando di 50.000, boh. E non è come dici tu che c'è bene di radio. Perciò io non ho preso ieri, ce l'ho preso io. Cane morto. E a seconda di come va, mi spiego anche il terzo cesce. Allora, aspetta. Di una a me, allora. Allora, aspetta un attimino, allora, funziona così, no? Sono 196, penso è già, per 2, 392, meno 35. Praticamente due ci costano così, se ci fa un'unica spedizione ci costano 357. 357 diviso 2, allora, diviso 2, 178 euro ci viene. È buono, prendiamoli subito. Non fa spedizioni già, bisogna aspettare a giugno, capito? A giugno. Ci facciamo un regalo per fare agosto. Aspetta, aspetta lui. Dall'altro, con l'altro venditore, a vedere quanto vuoi. Quello che costa di meno già, oltre 200 euro costa. Vuoi spendere oltre 200 euro? Prova da Radio Smitter. Radio Smitter dove l'ha preso Eugenio. E in Italia gli dà 178 euro, mi fa. Faccio controllo, aspetta. Allora, lui al momento te lo dà già a 240 canali. Cioè, dovrebbe essere la versione omologata, però disomologata. Ah, me ne ha finito. Pensate che puffa. Ah, ma voi non lo prendete per tenerlo omologato. Allora problema non ce n'è, pigliatelo dall'Italia, no? Radio Smitter. Smitter, smette, smetter. Ma posso fare una domanda? Ma perché siete puntati proprio sul 3009? È un apparecchio che ci piace, che c'è bene di radio, e mi piace anche con l'apparecchio. Vabbè, c'è bene radio, sono bene tutte, basta abbinare i microfoni buoni. Io l'ho avuto il 3009, ma superiore al 3009 io con la differenza del Galaxy Pluto uscirò meglio al Galaxy Pluto, per dirti, e nessuno mi può dire il contrario perché ce li avevo tutte e due in originale e tutte e due poi modificati. Il Galaxy Pluto vi cui una giusta sia in ricezione che in trasmissione. Oh, non me lo date. Radio Smitter, sì che c'è, cavolo no. Tanto c'è un giro da Radio Smitter. Ha scritto Smitter. Smitter, Smitter, Lu. Ehi, Radio Smitter, su eBay. Smitter, 2T. Su diavolo. Lo Smith. Bella quella che ho dato a Valerio già. Chi sei, è bella, davvero. Proprio il kit completo, tutto blu, non lampadine, kit completo, anche il variatore dei canali, tutto blu, lo Smitter blu. Su una bomba c'è la radio. Una bomba era, nuova, proprio l'ho fatta dentro la busta, dentro la scatola. Ma che non ne ha Marco lì, non ce n'è, ma già non ce n'è, ho scritto Superstar 3009, non ce n'è, nessuna corrispondenza è stata trovata. È vero, non lo trovo nemmeno io dall'Italia, probabile li abbia terminati pure, e voi avete aspettato un bemmi anche. Lo so, ho comprato, poi mi sono fermato, sono un po' lì, mi sono fermato per... ero così sul digitale, poi manco quello. Se è preciso al mio, 179, compralo subito, da Winter Group. C'è il President, allora, President Grant, 120 canali, 10 Watt AM, 21 in FM e SSB, 450 euro più 10 di spedizione, alla faccia. Quanto di quanto euro mi scelgo anche? 5.000, c'è, uguale al mio. 179 euro da quello lì. 450 euro mi esce un HF. Ah, mica sono così macco che l'ha comprato la macchina, quella cifra lì già, 170 euro è troppo. C'è uno che lo vende a 318 euro. Mia truffa. Claro, lo so, è un, diciamo, 440. 450 è uguale a 440. Lu, sono... io ho imparato, ma non le comprerei più quelle radio a questi ultimi, ma manco ci mi regali. Purtroppo prima le ho fatte gli errori, ora non ne posso più. Adesso con quei soldi me li tengo in tasca, e se non me li voglio tenere in tasca mi compro roba diversa, no, non me la fotti nulla. Capito? Tu immaginati, quello strumento che ho comprato costa quanto state comprando voi il 3.900. Però è uno strumento che mi può servire, è uno strumento professionale, e cosa sai a comprare a baracchini? Lo so, se ti serve poi tu c'hai altre frequenze dove poter andare. Vediamo un po', dai, Riccardino. Sì, sono qui. Aio, parla, dici qualcosa, aio. Non lo so, stavo ascoltando per la storia del 3009, ma non ce l'ho presente quale, perché ci sono due modelli di 3009, se non sbaglio. Quello con la cornice argentata, guarda adesso, è me e lo vedi. Superstar 3009. Ho capito. Quello con la luce blu. Ecco, avanti, ecco. Buonasera. Buonasera a lei, avanti. Buonasera a lei. Uia. Claudio. Attimo di bianco. Sei già mette sciatto, rottino, leggermente. No, ho cambiato microfono. E adesso? Ho cambiato microfono, Marco. Ciao a te. Meglio. Ciao Tino. Ciao a tutti, scusate. Com'è Marco lì? No, bene, no, all'inizio che sei entrato era Saturino, ma tu non riuscivi a farlo andare bene una scarpetta, vero? No, vabbè, un scarpone grande, è un B500, no, mi è successa un'altra cosa, poi non so se riesco a concludere. Vabbè, adesso sto utilizzando non il solito microfono, un altro microfono, un Q4, volevo sapere se andava bene lo stesso in questa radio. Sì, ma per un attimo, come sei entrato ieri, come Saturino appena pochino, poi Può darsi, perché c'erano i watt di entrata della radio, erano troppo alti, sicuramente l'ho abbassati adesso. Va bene. Ciao Riccardi, allora? Allora? Oggi non hai lavorato, no? Oggi, non ho fatto quasi niente. Non hai capito. Comunque Marco, ho fatto come mi hai detto tu, ho messo il Mickey Gain della radio tutto alto, adesso sto andando con neanche a metà del Q4, però mi piaceva più il Q5, porca miseria. Sai cosa succede? Che attacco il Q5 e va in portante la radio, dopodiché schiaccio la portante e mi cambia i canali, tipo download, capito? Non so cosa sia successo col microfono. I fili sono... ho rifatto le connessioni, tutti perfetti. Non so cosa sia successo. Beh, quella è piedinatura sbagliata, perché i colori non sono tutti uguali, mi. In base agli anni, all'edizione dei microfoni, certe volte li hanno cambiati di brutto anche. di brutto, devi controllare il tester. Comunque ti, ti ricordi una volta mi avevi chiesto cos'era quel puntino tra il 2 e il 7, no? Quello serve a escludere dalla scansione alcuni canali. Se tu premi function, aspetta come la skip scan, no, scan list, SC list, no? Ti esclude quel determinato canale dalla scansione, se tu fai la scansione col pulsante. Tutto lì. Bianco per me. Va bene, Riccardo. Bene, bene. È una cosa in più so. No, e poi ti volevo chiedere, no, allora, ritornando al microfono al discorso di prima, allora metti il caso che io sto utilizzando ora questo più 4, no? Cosa è successo? Io stavo usando il più 5, è successo che ho spento la radio, l'ho riaccesa, è andata importante, non ho fatto niente di che, c'era il microfono che stavo utilizzando prima, hai capito cosa ti voglio dire? Non è che le connessioni erano sbagliate o ho sbagliato facendole, è come che io in questo microfono adesso io mollo la portante, spengo il baracchino, dopo 5 minuti lo riaccendo per modulare ed è già importante, hai capito cosa ti voglio dire, Marco? Ah, lo stesso Mike che usavi prima, che cavolo, ma non è che qualche micro filettino dei vari fili scantona nel pin a fianco, no? E ti innesca qualche reazione strana, se no i pin quelli sono. No, perché proprio per evitare queste cose qua ne ho fatto uno a uno, li ho isolati, li ho rimesso le condizioni come erano prima, niente. Tanto è vero che ho fatto questo microfono perché ce l'avevo, se no avrei fatto un altro di più 5, ma l'altro non lo voglio toccare perché le connessioni del Midland. Infatti certe volte questi baracchini qua con display digitali, TSMD, mi ha dato l'idea di qualche... Boh. Si svegliano male, vedi, col 3009 non sarebbe successo, tutto componenti classici, niente menate varie, vabbè. Non so cosa dirti, comunque la radio è la stessa, va bene? Sì, dai, vi lascio, devo ancora iniziare a mangiare, cioè io non ho pranzato, sono lei? Gesù, vabbè, pranzo, pasto unico oggi, dai, riprendete. Ehi, ma è presto me. Gesù, sempre peggio, vabbè, dai, riprendete voi. Va bene, va bene, ma è ancora luce, ancora luce, non so, io solitamente ceno quando cala il buio completo. Ma lui pranza a questa ora. Ciao Natali. Ciao. Dio. Ui. Vabbè, pazienza. Cosa deve fare? Ha degli orari particolari. Vabbè, chi ci rimango? Sto andando via, però io me ne vado a cenare, non a pranzare come quel cuccumane. Ah, va bene, dai Natali. Allora, ci si riascolta nel caso, dai. Quel Rix anche da parte mia sono qua al PC. Di traverso, Natali. Anch'io sono tornato. È tanto, eh. E passa buone feste. No, sto scherzando. Ciao Riccardo, riprendi. Ok, mi sono allontanato per prendere caricabatterie, qui non so chi se ne è andato e chi non se ne è andato. Sono tornato adesso. Niente contagi in Sardegna oggi, niente contagi, solo un morto ma risalente ad aprile. Ciao Riccardino, ciao Marco, poi c'è Natalino, poi chi c'è? Tino, e non me lo ricordo, sono ribambito, dai. Avanti Riccardi. Ok, ciao Giulio, ben ascoltato. Ciao Giulio, ciao. Ciao Tino, sempre la grande, tu sempre... vabbè, dai. Auguri Riccardi, sei contento adesso, eh? Sì. Davvero. Davvero, sì, proprio davvero. Ciao Luca. Riccardino, quanto ti arrivo io adesso, quello Smith lì adesso, guarda bene, e dammi un segnale alto, se no mi metto a piangere. È un 9:20. Ecco da voi che sia, adesso piango. Vabbè dai, io scendo per la cena, dai. Stavo guardando il telegiornale, meno male oggi non ci sono contagi a Sassari. distanza in tutta la Sardegna, nessun contagio. Speriamo bene, e in America stanno già provando il vaccino, e a quanto sembra è stato scoperto il vaccino ideale, quello che va bene.